greatest of our common dangers. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. I'm a Democrat. And I'm a Republican. I come up with ideas in the U.S. Senate to help Americans. And I block them. It's true. He does. Do you have any ideas? No, ideas are hard. Blocking them is easy, especially in the... Hai qualche idea? Chiede il Mac al PC, però in realtà è il democratico che chiede al repubblicano. No, le idee sono noiose, è più semplice cancellare le tue di idee. Questo è il modo in cui il Partito Democratico, un Partito Democratico americano discretamente in difficoltà in questo momento, per quanto vedremo tra poco, sta provando a fare i suoi contrattacchi nei confronti del Partito Repubblicano, perché è tempo di elezioni, si avvicina a novembre e in America spesso e volentieri a novembre si vota, e sarà così anche in questa occasione. Nella fattispecie sono in ballottaggio delle poltrone di governatore molto importanti, anche per dove sono collocate, proprio geograficamente hanno un significato particolare, e tante poltrone di sindaco che naturalmente su base locale daranno agli americani una visione, una condizione diversa del proprio vivere quotidiano. Nella fattispecie c'è una corsa in particolare che sta interessando molto da vicino la Casa Bianca, non fosse altro che per motivi geografici. La Casa Bianca, Washington, il distretto di Columbia, come ben sapete, è praticamente incastrato tra lo stato della Virginia e quello del Maryland, e quindi il nuovo governatore della Virginia, in un certo senso, è una specie di cugino, no? Di parente, comunque di persona che ha voce in capitolo su quanto accade anche nella capitale degli Stati Uniti d'America. E nella fattispecie c'è un testa a testa in questo momento che sta favorendo piuttosto nettamente il procuratore generale della Virginia, Bob McDonnell, che è il candidato repubblicano, dal momento che il governatore uscente non si può ripresentare per le complesse regolamentazioni del voto in America, e c'è il candidato democratico che si chiama Craig Deeds, un senatore di Stato che viene dalla parte più rurale della Virginia, un tipo tranquillo, c'è chi dice fin troppo tranquillo, che non riesce a rimontare, e qui si è accesa la polemica politica invece nazionale, anche con dei risvolti internazionali che ci interessa osservare per come tutto ciò che accade nei sondaggi relativi al duello fra questo Deeds e questo McDonnell sta diventando una questione politica più generale, nel senso che si dice, ad esempio, ecco, Craig Deeds è un tipico democratico in stile Barack Obama, e vedete che i democratici in stile Barack Obama possono essere battuti. E questo, se non è un'idea, è un argomento. I repubblicani da tempo sono in cerca di argomenti, e oggi vedremo, proprio nella puntata di oggi percorreremo alcune possibili aree di tematiche su cui i repubblicani possono lavorare per ripartire, e la battibilità di un tipico obamiano è uno di questi. Non a caso stanno uscendo degli articoli piuttosto duri nei confronti della condotta della Casa Bianca nel suo non sostegno al candidato Deeds per questa poltrona governatore della Virginia. In sostanza si dice, si scrive, ecco, guardate, vedete che Barack Obama, quando c'è odore di sconfitta, non vuole sporcarsi le mani, gira alla larga, fa pochi comizi, non si fa vivo, non si fa sentire, in un certo senso osserva di lontano ma non si lascia coinvolgere nel duello. Invece si lascia coinvolgere molto più nel duello che ha un esito più incerto, ma decisamente più promettente per i colori democratici, che è quello per la poltrona del governatore del New Jersey, dove Joe Corzine è in netta ripresa sul suo avversario, che è un altro personaggio della giustizia federale nello stato di New Jersey, si chiama Chris Christie, e non a caso questa settimana si dice che Obama verrà visto spesso e volentieri girare per il New Jersey a sostenere la causa di Corzine. Ogni posto assomiglia agli altri in certe abitudini, soprattutto quando si parla di politica, ma di fatto è così. Perché New Jersey sì e Virginia no? Beh, insomma, qualche ipotesi possiamo farla da soli. Sicuramente la costa est in queste giornate sarà un po' il centro, in queste serate soprattutto sarà un po' il focus dell'attenzione americana, perché ormai sono al rush finale queste corse elettorali che si intrecceranno in modo piuttosto piacevole, dal momento che fuori comincia veramente a far freddo, tanto più sulla costa est, con le finali delle World Series. This is Jack Curry reporting for the New York Times from Yankee Stadium, where the Yankees have just won the American League Championship Series. Eccolo qua, questo è lo specialista, il telecronista della stazione televisiva, diciamo così, del pandan televisivo del New York Times, che annuncia che i New York Times hanno appena vinto la loro lega, la American League, e si avviano a giocarsi le World Series di baseball, l'American Pastime, il passatempo nazionale, come dicono gli americani, con i Philadelphia Phillies, quindi un duello che si svolge su un'asse di poche centinaia di chilometri, quelli che dividono Philadelphia da New York, quelle che dividono un'antichissima rivalità proprio sull'asse New York-Philadelphia-Boston, che è l'asse dell'aristocrazia del baseball, e quella che coinvolge tutta America quando gli Yankees tornano a giocare una finale come quella che si aprirà mercoledì sera, peraltro trasmessa ormai integralmente anche sui nostri teleschermi se avete un satellite. Gli Yankees vuol dire il passato, vuol dire la leggenda, vuol dire il recupero del baseball come memoria collettiva nazionale. Vorrà dire che nel corso di queste finali, ne siamo piuttosto certi, vedremo spesso e volentieri, o almeno una volta, dai, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama affacciarsi nel corso dell'intervallo tra un inning e l'altro per raccontarci qualcosa su come educare i figli, come usare lo sport come buon esempio e magari su come votare Corzine prossimo governatore del New Jersey. Primo piano. We are ahead in the first quarter of this year. We had actually more eyeballs on Fox than CNN had. Di chi è questa voce così un po' saccente ma anche molto composta, di un uomo chiaramente di una certa età che gli americani conoscono poco, perché conoscono in realtà quelli che lui spedisce in video? In realtà è quella di un uomo potentissimo, si chiama Roger Ailes, ha 69 anni, nel 1996 ha letteralmente creato Fox News su incarico di Rupert Murdoch, inizialmente pescando, pensate un po', 89 dipendenti dalla NBC, all'epoca una delle tre grandi reti, quando c'era questo triumvirato televisivo che poi man mano si è un po' disciolto. Ebbene, nel weekend ci sono state tante voci attorno a Roger Ailes, tante voci che nascono naturalmente da questa crescente guerra non solo culturale, anche di parole, in atto tra Fox News e la Casa Bianca, e qualcuno ha ipotizzato, soprattutto negli uffici di un giornale sempre molto informato, un giornale online che si chiama The Politico, ha ipotizzato che tutto ciò altro non sia che l'antipasto di una vera e propria candidatura elettorale per le presidenziali di questo signore, abbastanza avanti in età perché arriverebbe ad avere 72 anni al momento del voto, ma anche John McCain ce li aveva, e è dotato, secondo chi lo conosce e chi se ne intende del settore, di tanta capacità di comunicare con gli americani. Un personaggio che avrebbe sicuramente successo, ipotizzano i sondaggisti, uno che sa perfettamente come vincere, uno che conosce in profondità le tematiche culturali, i problemi, e soprattutto uno solidamente su posizioni reaganiane, è stato anche nello staff di Nixon, ha lavorato per Rudolf Giuliani, è un vecchio signore bianco che rappresenterebbe forse un possibile antipasto antidoto a un quadriennato di Barack Obama. Lui per adesso naturalmente si affretta a smentire qualsiasi possibilità. Si sa per certo che qualche giorno fa, cosa strana questa davvero, ha incontrato niente meno che Axelrod, ovvero il principale stratega di Barack Obama. I due si sarebbero visti davanti a un caffè, come dicono gli americani, a Manhattan, ma evidentemente dall'incontro poco è uscito di costruttivo, se è vero che ancora oggi ricomincia sui media americani e su Fox in particolare così il sermone del vittimismo. Ormai Fox ha capito che cavalcare l'ostilità che la Casa Bianca sta dimostrando nei confronti di questo canale funziona, gli indici di ascolto vanno benissimo, Rupert Murdoch è in netta ascesa, Newt Gingrich si affretta a dire che guardate che anch'io forse potrei correre da quelle parti per una informazione, una comunicazione vera, per un'America che trova la propria rispettabilità ma al tempo stesso non dimentica il proprio gusto per l'equilibrio, insomma accusando apertamente la Casa Bianca di eccessi partigiani, di narcisismo e di aver sostituito il we, no? Il noi con il mi, con l'io. Sono grandi manovre di avvicinamento, ma qualcosa sotto questa torta dei media così presenti sulla scena politica sicuramente c'è. Buongiorno America. From China to India, from Japan to Germany, nations everywhere are racing to develop new ways to produce and use energy. The nation that wins this competition. La nazione che vincerà la competizione energetica guiderà l'economia globale nel XXI secolo. Io voglio che sia l'America a vincere quella competizione, lo sviluppo e la innovazione. Sono da sempre nel nostro DNA. C'è un bisogno di normalizzazione, di rigenerazione di quel abituale carisma che Barack Obama, la sua famiglia, il suo nucleo, il suo team di lavoro hanno sempre tenuto ben vivo, di cui hanno sempre circondato la propria presenza. In questo momento in cui le polemiche si stanno veramente addensando attorno alla Casa Bianca, non arriva a caso dunque la visita che alla fine settimana scorsa il presidente ha fatto in uno dei luoghi dell'eccellenza americana come il MIT, il Massachusetts Institute of Technology, dove è andata a parlare di argomenti che certamente in questo momento non sono in testa alle priorità americane, tra l'altro accompagnato da quello che ormai chiaramente è il suo prediletto, ovvero John Kerry, il candidato perdente del 2004, ma l'autore di un discreto successo diplomatico in Afghanistan appunto la settimana scorsa. Ha parlato di una strategia di sviluppo sostenibile di tutte le fonti energetiche di nuova generazione, dai pannelli solari al nucleare, insomma, ha lavorato fondamentalmente a ristabilire, no, quell'aura di presidente in avanti, di presidente che ha la visione, che forse appunto in questi giorni in cui gli indici di gradimento non vanno granché, i progetti di innovazione, a cominciare da quello della salute, stanno procedendo, ma tra mille difficoltà, e invece le guerre di parole si stanno moltiplicando un po' a dismisura. Nel frattempo i giornali continuano naturalmente naturalmente a essere assai meno teneri che prima dell'estate con il presidente. Il New York Times stamattina addirittura fa le pulci al fatto che il presidente abbia fatto una partita di pallacanestro con giocatori solo uomini. Insomma, io francamente qui vorrei prendere anche posizione, insomma, senza giocatori del gentil sesso. Prendiamo atto di questa critica, ma francamente ci sembra un pochino inquietante da parte del grande quotidiano di New York. Il bello è che alla Casa Bianca poi si preoccupano sul serio e reagiscono immediatamente, per cui nel weekend Obama è andato a giocare per la prima volta con una donna a golf, perché evidentemente a pallacanestro non gli andava, ma se lo è fatto andare a golf e ha giocato con Melody Barnes, che peraltro è una consigliera di politica interna di Barack Obama, quindi sempre una signora del suo staff, ma per far vedere che per carità lui gioca anche con le signore. E nel frattempo però la sua signora raccontava un po' di segreti di casa Obama, nella fattispecie a Jay Leno, in una intervista sulle 10 cose, le 10 domande di Jay Leno, il corrispondente di quello di Letterman, e noi ne abbiamo pescate alcune perché ci raccontano un po' di segreti delle sacre stanze della Casa Bianca. Ecco Michelle che comincia a rispondere a Gelino. First question, Halloween is coming up. What are Malia and Sasha dressing up for as for Halloween? That, I think that's a top secret. La prima domanda di Jay Leno su una tematica che un po' a tutti ci teneva in ansia, ovvero come si maschereranno le due ragazze Obama per Halloween. Io so che voi su questo argomento eravate anche piuttosto pressanti nei confronti della nostra redazione. Purtroppo la risposta che possiamo darvi, insomma, per bocca di mamma, quindi la più accreditata, è quella che è top secret, c'è segreto di massimo livello sull'argomento. Mi dispiace, ma dovete aspettare. Procediamo. What is on your iPod playlist? Ooh, I have a pretty eclectic iPod distribution. I've got Sting, I've got Stevie Wonder, my favorite. I've got some Sarah Bareilles. Sarah Bareilles, cantautrice dell'ultima ora, Sting e Stevie Wonder. Sulla seconda domanda, ma non ha delle domande, ma chi gliele scrive domande a Jay Leno? Comunque la seconda domanda per Jay Leno era: che cosa ha, cara signora, nel suo iPod? E ha Sting, Stevie Wonder e Sarah Bareilles, e speriamo anche qualcosa di, come dire, un filo più fresco del resto. Insomma, è sempre una signora di una certa età, ma continuiamo a sentire questo terzo grado, via, esageriamo, secondo grado. Have you ever been nervous meeting someone for the first time? And if so, who was it? I get nervous a lot. I'm nervous now. This is terrifying. Chi ti innervosisce? Chi ti fa venire paura quando lo incontri? Meeting the Pope. It was nerve-wracking meeting the Queen of England. And I was really nervous meeting Stevie Wonder for the first time because he is my. Allora, quella che le ha fatto veramente tremare le gambe più di tutti, poi gli altri secondo me sono un po' d'occasione, è Stevie Wonder, per il quale non è un segreto che Madame Obama ha un debole. Quando ha visto il grande Stevie, una montagna d'uomo, se lo vedete da vicino, lei, come dire, si è sentita un attimo mancare, cosa che però poi giustamente dice vale anche per il Papa e per la regina d'Inghilterra. E poi, già che ci siamo, anche per te Jay Leno, vedere te e avere la tremarella è un tutt'uno. The most annoying habit the president has. La peggiore abitudine di tuo marito, di Barack. We don't have enough time. Non abbiamo, questa è la risposta un po' a doppio senso, non abbiamo troppo tempo per avere cattive abitudini. No annoying habits, right, Jay? None. Exactly. Adesso dice che è perfetto, che è un uomo perfetto. Insomma, fa un po' di campagna elettorale. You know what? When he beats me at tennis, that gets to be pretty annoying. E poi fa la sua parte della ragazza con i pantaloni. Dice: vuoi sapere una cosa che mi scoccia profondamente? Quando mi batte a tennis, perché evidentemente le partite tra i due finiscono così. Ma secondo me, comunque, un servizio di Michelle Obama per rispondere degnamente ce ne vuole un pochino. poi dice che Jailino ha gli indici di ascolto un po' in calo. Io secondo me, non so, forse qualche domandina un po' più, no, un po' più un po' meno stupida gliela poteva fare, bene o male. Però beh, questa è la First Lady. Gli indici di ascolto pare che si impennano quando appare in televisione. Anche noi ve l'abbiamo voluta far ascoltare qui a Buongiorno America, dove ci sono io, che sono Stefano Pistolini, poi c'è Gloria Guerrera in redazione, poi c'è Valerio Rocchetti in regia a Roma e Filippo Aureggi a Milano. La mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook si chiama Redazione Jefferson 3, la replica è dopo mezzanotte, la diretta dopo l'una e mezza domani qui su Radio 24. State tutti benissimo.